Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Tra le voci più dure da digerire delle nostre spese mensili annuali c'è quella per tante persone del mutuo per la casa, e una voce importantissima del mutuo è quella del tasso. Non è tanto il capitale che uno si è fatto prestare da restituire quanto gli interessi, appunto, che poi pesano in maniera significativa. Di questo parliamo in questo primo appuntamento settimanale con Carlo Garofolini, che è il presidente dell'Adico. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti. Allora, i tassi, lo sappiamo, sono alti, sono stati forse tenuti sotto controllo dalla Banca Centrale Europea in questo periodo di crisi, però secondo quello che dite voi, noi in Italia paghiamo, tanto per cambiare, di più rispetto a quanto si pagherebbe in Europa. Sì, guarda Mirko, questa volta a darci ragione è stata la Banca Centrale Europea, che sostanzialmente, in base a un'indagine che ha fatto riferita anche se a fine novembre del 2012, quindi poco più di un mese e mezzo fa, ha validato quelli che erano un po' le nostre denunce su fatto che i tassi che paghiamo in Italia sostanzialmente sono i più cari d'Europa. E a darci questo dato chiaramente è stato dato proprio dalla Banca Centrale, che ha analizzato un po' quelli che sono tutti i tassi che pagano i principali Stati membri, e certamente anche in questo contesto ne siamo usciti abbastanza malconci. Ecco, allora quantifichiamo subito, insomma, poi chiaramente ognuno ha il suo tasso, ognuno ha il suo contratto, ognuno ha il suo mutuo, però la media ci può dare un'idea. Sì, la media è stata calcolata su un mutuo di 130.000 euro a 20 anni. Sono stati monitorati, appunto, come detto, gran parte, se non praticamente tutti i paesi. Cosa è emerso? È emerso che sostanzialmente se in Italia paghiamo un tasso di interesse su un mutuo ipotecario del 4,05%, la media europea si assesta intorno al 3,35%, con la Germania che ha un dato del 2,92, l'Austria 2,97, la Spagna, che sappiamo che non se la passa meglio di noi, al 3,06, e poi, per non parlare della nota Finlandia, che è solo all'1,99%. Chi fa peggio di noi è solamente il Portogallo, con un tasso del 4,4%. Questo chiaramente si traduce alla fine dell'anno in tanti soldini che se ne vanno. Si traduce in tanti soldini, perché sempre da questa indagine è stata fatta una proiezione di un interesse di 130.000 euro, appunto, su 20 anni, dove viene calcolato allo stato attuale una rata di circa 900 euro al mese. Per esattezza si va a pagare 9.500 euro all'anno, quindi 9.500 euro all'anno oggi allo stato attuale per 20 anni, sappiamo che andiamo a finire a pagare circa 190.000 euro rispetto a quello che è un mutuo richiesto di 130.000 euro. E fermo restando che su questo 130.000 euro bisogna anche aggiungere le spese del notaio, le spese della pratica, le spese della perizia, le spese dell'assicurazione e quant'altro, quindi in realtà poi rispetto a quello che è l'importo richiesto ci troviamo sempre anche 3-4.000 euro in meno a volte un po' meno, ma comunque l'importo della spesa è questa. Certamente su una media europea del 3,35% rispetto a un tasso del 4,05% che si paga in Italia, un 0,7% di differenza può far risparmiare anche 60-70 euro al mese, che moltiplicato un anno possono arrivare a superare gli 800 euro al mese, che su 20 anni possono arrivare ad essere a 16.000 euro in 20 anni, quindi 16.000 euro in 20 anni ci rendiamo conto che soprattutto in questo periodo la cosa è abbastanza significativa, e soprattutto sarebbe una boccata d'ossigeno che le famiglie potrebbero avere se ci adeguassimo a quelli che sono un po' gli standard europei. Ecco, appunto, l'Europa che tanto invochiamo come punto di riferimento per tante cose esiste, ma non c'è evidentemente ancora uniformità tra tutti i paesi europei su tante cose, insomma, dalle più piccole, l'unica cosa che ci accomuna sono le banconote e le monete, perché sono quelle che hanno validità in tutti i paesi, ma per il resto le differenze sono ancora molte. Guarda Mirko, è una vergogna ammettere una cosa, che noi quando ci paragoniamo all'Europa siamo sempre i fanalini di coda su tutto. Tu vedi anche poco tempo fa, pochi giorni fa, è uscita una dichiarazione della Comunità Europea dove parlava anche dell'IMU, come questa è stata una tassa ingiusta, perché è una tassa non, che non va a ripercuotersi su quelli che sono i redditi, ma su quelli che sono le proprietà, e sappiamo che ci sono pensionati che hanno costruito una casa con fatica 50 anni fa e vivono con una pensione di 600 euro, non gli basta neanche pagare una rata dell'IMU. Però è anche vero che quando dobbiamo paragonarci all'Europa noi ne siamo sempre distrutti, perché oggi su quelli che sono gli stipendi medi, su quelli che sono le bollette medie, su quello che è il costo della benzina o il gasolio alla pompa, su quelli che sono le assicurazioni dell'auto, su quelli che sono la pressione fiscale che abbiamo, su quelli che sono la perdita di acquisto che le famiglie hanno, su qualsiasi cosa noi siamo sempre agli ultimi posti, paragonabili appena appena con l'Estonia, Lettonia, paesi anche incredibili che difficilmente si riescono neanche più a identificare dove sono. Certamente questo ci fa riflettere anche sulla nostra bella classe dirigente, e spero che questa, in un'epoca, in un periodo in cui dovremo anche valutare chi andare prossimamente a votare, ci indurrà a fare delle serie riflessioni su chi può essere meritevole o meno, visto i numeri che stanno snocciolando. Dato di oggi, per esempio, quello che è debito italiano ha superato anche la quota stratosferica dei 2.020 miliardi, esatto, di euro, una cosa pazzesca. Quindi da una parte aumenta la pressione fiscale, che questo va a ridurre quello che è il potere d'acquisto delle famiglie, non si capisce perché poi continua a aumentare il debito italiano. Ecco, poi siccome poi i mutui, e qui toccheremo un altro argomento ma lo accenno solo, i mutui riguardano evidentemente il settore casa, sappiamo che poi chi ha chi è proprietario di casa ancora, o le sta pagando, ha comunque in mano un valore che non è più quello di quando l'aveva comprato, cioè c'è una svalutazione complessiva, anche perché forse in questi anni, nel decennio scorso, si è costruito troppo. Certo, abbiamo un valore dell'immobile che si è svalutato negli ultimi anni almeno del 20%, sappiamo che oggi per compensare questa svalutazione il governo ha pensato di rivalutare la rendita catastale del 60% e rivedere quelli che sono i tassi dell'IMU applicata, portandolo addirittura a 10,6 per mille per le seconde case, le abitazioni ad alto uso che non è quello residenziale, o magari attività commerciali per chi ha avuto o chi riesce ad avere un piccolo negozietto e svolgere una piccola attività imprenditoriale. Certamente tutti quelli che sono seri interventi non sono mai, sono stati ampiamente disattesi, ma questa volta non voglio essere io a dirlo, ma è la Banca Centrale Europea che continua a intervenire su quelli che sono un po' le scelte politiche che i nostri governi hanno fatto, e noi non possiamo fare altro che snocciolare i numeri e dare e manifestare il nostro disappunto. Certamente quando si parla di mutuo, essendo che è un impegno a lungo termine che normalmente coinvolge le famiglie italiane per 15, 20, addirittura 25, 30 anni, e capendo quella che è la difficoltà, questa è una cosa pazzesca. Concludo anche Mirko una cosa, che se da un lato oggi si parla di mutuo e bisogna renderci conto quant'è difficile riuscire ad ottenerlo, visto le difficoltà che le banche in questo periodo stanno attuando nei confronti delle famiglie e delle persone che lo richiedono, dall'altro basta che chiediamo un prestito di 30.000 euro, in 3 giorni te lo danno e ti applicano un tasso di interesse del 9,95%, quindi anche qua 30.000 euro come mutuo ipotecario, ci sono 1.000 pratiche, non si sa mai se questa pratica va a buon fine, però se chiedi un prestito di 30.000 euro basta che porti una busta paga, in 3 giorni te lo danno e paga un interesse del 9,95%, che certamente è un interesse che fino a poco tempo fa era quasi al limite di quello che era un tasso d'usura. Come dicevano in qualche film western, credo, i soldi pochi, maledetti e subito, perché non possiamo aspettare. Evidentemente la crisi colpisce anche questo. Con te allora ci fermiamo così su questo tema, e tra 2 giorni ritroviamo, probabilmente possiamo anticipare anche una voce nuova, sempre tra i vostri collaboratori. Grazie a Carlo Garofolini e alla sua Associazione Difesa Consumatori di Mestre, buon proseguimento. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.